Capitolo 5. Forse non era un ladro qualunque. Il mio addio a Fliunte avvenne in una mattinata grigia e umida, evento quasi sconosciuto da quelle parti. Dovevamo imbarcarci su una delle piccole zattere al porto fluviale nella direzione di Sicione e poi di Corinto. L'agorà era piena di gente curiosa, venuta anche dalla vicina Cleone. Quando il nostro gruppo raggiunse la piazza, prese anche a piovigginare. Al nostro passaggio la delegazione della città, a nome di tutta Fliunte, vuotò i cesti sulle nostre teste. Fummo sommersi di noci e fichi secchi, beneauguranti affinché gli dei ci proteggessero in Attica. Zia Demodice non era presente. Non avrei sopportato le sue inevitabili ingiurie e lamentazioni. Mio padre era sparito, probabilmente già in viaggio verso la sua agognata Trinacria. Le mie compagne e io sfilavamo in mezzo alla gente, scortate da un gruppo di arcieri venuti apposta da Atene. Mi trovavo nelle prime posizioni e ignoravo la procedura della cerimonia del nostro passaggio ufficiale alla categoria degli schiavi. Una parte delle mie compagne lo era sin dalla nascita, mentre le altre lo erano diventate come me, perché ripudiate, perché nessuno le aveva sposate o perché avevano tentato di fuggire. Quando toccò a me, mi presentai davanti a un tavolo a cui erano seduti un magistrato sacerdote della dea Atena che rappresentava l'arconte eponimo della città ed Eufrone, il commerciante che ci aveva comprate. Eufrone agiva per conto di alcuni dei ricconi di Atene che sfruttavano le miniere d'argento dell'Aurio. Due arcieri stavano in piedi alle loro spalle. Eufrone era di mezza età, piccolo di statura ma tozzo, un piccolo toro. Occhi chiari, sfuggenti. Il magistrato sacerdote chiese il mio nome. Eufrone cercò nel foglio che aveva dinanzi a sé. Assiotea di Piramo e Antinoe, di Fliunte, pagata a Piramo la somma di 700 dracme. Ripudiata perché si rifiuta di giacere col marito e dargli dei figli. Voce aspra. Tutto il suo atteggiamento denotava fastidio per la lungaggine delle pratiche. Il magistrato sacerdote, voce tagliente, tutto questo lo hai fatto perché hai un amante? Non può esserci altro motivo per un simile affronto a un cittadino valoroso come Paionio. E mi fissava con sguardo accusatore, sfiorandosi il mento con una mano. No, non ho avuto amanti. Ho giaciuto per i primi 2 mesi del matrimonio solo con mio marito. Al settimo mese di gravidanza ho perso il bambino. Ho deciso di non volerne più né di giacere con nessun altro uomo. Eufrone era sempre più nervoso, ma il magistrato sacerdote sembrava non essere ancora soddisfatto. Tuo marito ti usava violenza, forse? Le parole mi vennero alle labbra facili, né più né meno di quella che usano tutti i mariti dell'Ellade con le loro mogli. E il mio cuore batteva forte, mentre la gente attorno a noi era ammutolita. Il magistrato sacerdote si umettò la bocca, guardò spietato. E come minimo tu sai anche leggere e scrivere. E scuoteva il capo con rapidi scatti in attesa. Sì, so leggere e scrivere. Si volse verso Eufrone. Questa mattina i miei arcieri non riuscivano a trovarla. Era fuggita. Una volta acciuffata, nascosta lungo il fiume a uno stadio da qui, ha cercato di giustificarsi dicendo che si era sentita male. Così male da volersi lasciar morire. Scrive nella sua scheda che è una schiava che ha tentato di fuggire e, ancor peggio, di ammazzarsi. Mi fissava con uno sguardo sprezzante. Dovrei farti marchiare a fuoco sulla fronte, come tutti gli schiavi che tentano di fuggire, in modo che chiunque possa capire subito che appartiene alla tribù più pericolosa che si annida in tutta l'Ellade, quella dei ribelli. Eufrone emise una specie di grugnito scuro in volto. Il magistrato sacerdote continuava a lanciarmi occhiate malevoli. Tu saresti capace di negare persino l'esistenza degli dèi. Assiutea, gente come te è capace di mettere in discussione tutto l'ordinamento sociale. Gentaccia come te può far balenare l'idea che una donna o uno schiavo non sono creature inferiori. Un'occhiata vitrea ad Eufrone. Di ai tuoi arcieri che la tengano particolarmente d'occhio e invece delle solite 50 dracme, per lei pagane 100 di tasse. Gli occhi sfuggenti di Ofrone si infiammarono, sul suo volto un'espressione beffarda. Già l'ho pagata 200 dracme più delle altre. Chiederò agli dei se devo continuare o meno a trafficare con il bestiame umano. Con questa ribelle ci potrai ricavare parecchie dracme in più, perciò se la vuoi scrivi 100 accanto al suo nome. Poi dopo avermi scrutato intensamente. Ma se tu dovessi decidere di venderla a un postribolo, il marchio in fronte ne dimezzerebbe il valore, perciò sia marchiata a fuoco solo sul braccio sinistro. E con un gesto deciso della mano mi fece cenno di proseguire. Eufrone soffiò, annotò qualcosa sul papiro che aveva dinanzi a sé, fece un cenno all'arciere che teneva acceso il fuoco nel braciere. Superai lo schiavo che tagliava i capelli, avendoli io già corti per conto mio. Feci qualche passo in avanti, un altro arciere mi afferrò il braccio sinistro immobilizzandolo, e l'altro estrasse dal fuoco un ferro tenuto per un manico di legno, alla cui estremità c'era una piastra arroventata. Fu un dolore violento. Cercai di non gridare. Non ci riuscii. Fu l'arciere che mi teneva nella morsa ferrea delle sue mani, che separò con un colpo netto verso il basso il mio braccio fumante. Malferma sulle gambe raggiunse le mie compagne mentre altre noci e altri fichi secchi colpivano la mia testa. Un sacerdote, intanto, aveva immolato un gallo al dio del fiume e lo stava già arrostendo su un braciere sacro, per poi offrirlo al magistrato e al commerciante di schiavi. Mentre gettava spezie profumate sulla carne e le budella del gallo nel fiume, così pregava: O dio del fiume Asopo, accompagna queste 20 fanciulle con le tue braccia sino a Sicione, proteggile dai vortici, dai tuoni e dai fulmini. Trattale come se fossero le 20 figlie che avesti con la tua sposa a Metone. Lungo questo breve viaggio, chiamale con il nome delle tue figlie: Concira, Salamina, Egina, Pirene, Cleone, Tebe, Tanagra, Tespia, Aspide, Sinope, Ornia, Calcide. Proteggile, Zattere, dalla violenza dei tuoi flutti, o Dio Asopo. A metà mattinata le operazioni furono ultimate e a bordo delle piccole zattere prendemmo a solcare il fiume tempestoso per raggiungere Sicione, quindi Corinto via mare. Era quasi il tramonto quando arrivammo al Diolcos del Golfo di Corinto e ci fu impossibile attraversare subito l'Ismor caricando la nave sul grosso carro. Così ci sistemammo sulla sabbia, avvolto in un mantello di lana ad ammirare il sole che stava calando nella baia. Era la prima volta che vedevo il mare. La vista mi mozzò il fiato per la sua bellezza. Il cielo si era aperto, le nubi del giorno erano quasi tutte sparite e sulla distesa placida aleggiavano messaggi di pace che mi penetravano l'animo. Il cielo giallo-arancione sfumava in mille colori verso il globo del sole, rosso come il sangue, che andava inondando il mare, nella baia radiosa racchiusa dalle montagne. È la prima volta anche per te, vero, Assiotea? Era la voce di una ragazza venuta a sedersi accanto a me. Cercava di mettersi in testa il mantello per proteggere il nudo cuoio capelluto. Mentre per te è la prima volta che ti rasoni i capelli a zero, vero? Le passai una mano sul cranio, su cui era rimasta solo una lievissima peluria bionda. I suoi occhi chiari mi furono grati di quella carezza. Aveva un visetto pallido e smunto. Mi chiamo Marpessa, sono Ero di Cleone. Ci sei mai stata? Parlava a scatti, timida, incerta, con voce tremula. Fui assalita dal ricordo, da quegli attimi che forse non erano mai accaduti nella realtà. Con gli occhi mi rifugiai ancora nel mare. Sì, Marpessa, sono stata alla fiera di quest'anno e sono entrata nel tempio di Eracle, e lì dentro ho vissuto attimi meravigliosi. Ma dopo quello che ho visto e passato oggi, comincio a pensare che quel giorno a Cleone è stato solo un sogno. Il ricordo era struggente, quel tramonto di sangue era così bello che finì per dilatare il mio dolore. Ti fa ancora molto male il braccio? Mi fai vedere la ferita? Si accorse che ero emozionata, che cercavo di sfuggire ai suoi occhi col pretesto di ammirare quel tramonto mai visto. Fu lei a liberarmi il braccio dal mantello. Lo sfiorò con mani delicate, sollevò due occhi pietosi. Perché ci fanno questo a Siotea? E mi depose un bacio sulla ferita. Quanti anni hai, Marpessa? Hanno marchiato anche te? Ho 19 anni e la mia vita è molto simile alla tua, ma io sono una codarda per loro, una schiava tranquilla. Quindi a me solo una piccola ferita. E mi mostrò il piccolo foro sul braccio destro. Piccolo coraggio, piccola ferita. Poi anche lei diresse lo sguardo verso la giornata di sole che si nascondeva nel mare. A 13 anni mio padre mi ha venduta a un cittadino che lavorava nel tribunale di Cleone. Sono stata violentata per 4 anni. Ho avuto 3 aborti senza mai riuscire a portare a termine una sola gravidanza. Mio marito era certo che la causa fosse solo mia, ma per scrupolo mi ha fatta giacere con un suo amico, un ispettore dell'Agorà, un vecchio bavoso, padre di molti figli. Sono rimasta incinta anche del vecchio, ma ho avuto un altro aborto ancora. Mio marito mi ha ripudiata. Anche mio padre mi ha venduta per lo stesso prezzo tuo, 7 mine. Il sole era sprofondato nel mare. La luminosità, adesso meno intensa, da purpurea diventava gialla sognante. Sprofondato nel mistero della luce di quel tramonto di sogno, le raccontai del mio incontro con Iperide fino al nostro bacio. Alla fine Marpessa mi fissò incredula. Sono felice per te, ma ho paura che sia stato solo un'illusione. Un uomo libero e ricco, un ateniese, un oratore. Assiotea, hai vissuto un sogno, nient'altro che un sogno. Le sue labbra screpolate mi sfiorarono la ferita sul braccio con una dolcezza infinita. O invece lo hai incontrato davvero, ma forse lui cercava altro. Il tempio di Cleone è rinomato per le sue prostitute sacre, le Ieridulai, che si consacrano al semidio Eracle e poi si vendono ai pellegrini proprio in quel tempio, devolvendo i proventi ai sacerdoti. Cercò i miei occhi, dispiaciuta. Perdonami, Assiotea. Non credo possa esistere un uomo come Iperide. La strinse a me, al mio cuore, alla mia solitudine. Ci sdraiamo sulla sabbia. Faceva freddo e cercammo di scaldarci, abbracciate, in quel nostro primo giorno da schiave. Il mattino dopo, prima che il sole spuntasse da dietro la montagna che sovrastava Corinto, i marinai e gli arcieri ci ordinarono di stare su un grosso carro la nave con cui eravamo arrivate da Sicione. Eravamo un centinaio di ragazze in tutto. Fu una fatica terribile, ma ci riuscimmo, aiutandoci con delle travi. Poi ci toccò tirare il carro con sopra la nave lungo il Diolcos, la strada lastricata che attraversava l'istmo per 36 stadi. Infine calammo la nave in mare e partimmo alla volta di Atene. Eravamo spossate dalla fatica, dalle frustate. Gli arcieri, quei demoni del Tartaro, avevano usato senza pietà la frusta sulla nostra spalla. Come aveva previsto Teofane, il comandante, ci fu mare grosso e vento sfavorevole che lo obbligarono a bordeggiare. Zeus tuonò e piovve, i marinai non facevano che bestemmiare perché non avrebbero mai dovuto prendere il largo con quel tempo. Si rischiava di affondare. Eufrone però aveva insistito per partire a ogni costo, non rendendosi conto che avrebbe potuto rischiare di perdere il prezioso carico di bestiame umano. La nave ondeggiava paurosamente, ma tanta era la fatica accumulata che riuscimmo persino a dormire qualche ora. Il porto del Pireo era impressionante per la sua vastità. Decine di navi erano attraccate alle banchine di pietra, anche se giungemmo al crepuscolo, sulla gigantesca piazza ferveva ancora un'attività formicolante, frenetica. Le logge coperte potevano ospitare fino a 400 navi commerciali. Grossi pilastri sostenevano i loro tetti di tegole color nero. Poi c'era l'arsenale del sartiame, che serviva a contenere le attrezzature navali. E poi c'eravamo noi. Schiave, schiavi dappertutto, schiavi che portavano casse, orci, animali, che accompagnavano altri schiavi, schiavi che spingevano carri pieni di derrate tra urla, fischi, frustate. Dappertutto c'era gente che vendeva qualcosa, secchi, statuine, olive, piccoli flauti, borse, otri per l'acqua. Al di là della piazza, edifici e portici, da cui uscivano schiavi con mercanzia di ogni genere. Magazzini che inghiottivano e vomitavano gente senza sosta. Alle spalle dei portici si estendeva il quartiere abitato. Anzi, una città vera e propria che ospitava il Degma, l'enorme mercato del Pireo. E tutto, case, piazze, mercato, arsenali, logge, porto, tranne la stretta imboccatura, era circondato da mura altissime, invalicabili, abitate solo dai gabbiani. Sotto i portici di marmo sulla piazza, proprio mentre ci accingevamo a scendere scortati dagli arcieri, accesero grosse lanterne a olio, fissate dentro alti contenitori di ferro. Sembrava un'atmosfera di festa, e invece era solo il fervore quotidiano del più grande porto dell'Ellade. Il mattino dopo, a gruppetti di due o tre, ci chiamarono conducendoci in un edificio di pietra rossastra situato al fianco di un lungo portico che dava sulla piazza Ippodamo. Marpessa e io riuscimmo a rimanere assieme. L'arciere ci consegnò l'uomo che stava seduto dietro il tavolo, Firomaco, un ispettore della città che svolgeva il compito di avviare gli schiavi al lavoro. Magro, barba nera, completamente calvo. Assiotea di Fliunte, figlia di Piramo e Antinoe, sollevò i suoi occhi neri su di me. Sei tu, la figlia del commerciante di papiro? Fissava stupito il marchio quadrato sul mio braccio sinistro. Piramo è passato qui molte volte, siamo amici, ma sono quasi 2 anni che non si vede in giro. Credo sia andato a vivere in Trinacria, signore. Come mai quel marchio, Assiotea? Glielo spiegai in poche parole. Firomaco scuoteva la testa, incredulo. Tuo padre mi raccontava che aiutavi tua madre a copiare i libri, anche quelli del nostro grande Platone. Tuo marito poteva ricavare parecchi soldi da te. Avrebbe avuto una rendita fissa. Perché suppongo che a te quel mestiere piace più che allevare bambini, è così? Con la coda dell'occhio gettai un'occhiata a Marpessa. Tremava. È così, signore. Il mio ex marito è un campione olimpico. Ma è spartano. Credo non sia portato per il commercio come lo siete voi ateniesi. Mi vergognavo per quella mia specie di adulazione, ma lo dovevo fare per Marpessa oltre che per me. Firomaco fissò di nuovo il mio marchio. Tuo marito non si doveva privare di una ragazza come te. Gli spartani sono arroganti, si credono dei in terra. Questa è la verità. Fissò con insistenza il mio braccio. Se a Fliunte però ti hanno marchiato in quel modo, vuol dire che può rappresentare un pericolo. Queste decisioni in genere le prende un magistrato di fiducia dell'Arconte e quasi sempre è gente che sa il fatto suo. E io devo sapere, Assiotea. Forse non ti rendi conto di cosa sia il Pireo. Qui passa la maggioranza degli schiavi di tutta l'Attica. E il mio è un lavoro delicato. Se compi un errore di valutazione, si possono creare problemi seri. 80 anni fa, quando ci fu la rivolta degli schiavi nelle miniere dell'Aurio, la colpa fu principalmente del mio antico predecessore. Si chiamava Dipeno di Eleusi, un ex sacerdote raccomandato dall'Arconte. Gli dissero che avevano bisogno di altri 10.000 minatori e lui arruolò tutti gli schiavi che gli capitarono senza nemmeno guardarli in faccia. In mezzo a quei 10.000 si nascondevano molti ribelli. Sobillarono gli altri, ci fu la rivolta, vinsero gli schiavi, fuggirono tutti, uccisero molti cittadini liberi, razziarono, depredarono. Ci sono voluti anni per riprenderli e sterminarli. Scuoteva il capo, diffidente. A me questo non capiterà, Siotea. Si lisciò la fronte e il cranio nudi. Perché a sinistra, e tamburellava con dita nervose sul tavolo. Forse sei rimasta sconvolta dalla brutta fine che ha fatto tua madre? Non è questo, signore. La verità è che io preferisco morire piuttosto che giacere con un uomo. E Marpessa anche. E afferrai la mano della mia amica. Solo che io al magistrato di Fliunte l'ho detto così, come lo sto dicendo a te, signore. Lui l'ha preso come un atto di arroganza, mentre così non era. Stringevo la mano di Marpessa con dolcezza e lei sembrava rassicurata. Io e Marpessa siamo molto brava a copiare, a leggere e scrivere, a fare i conti. Utilizzateci per quello in cui rendiamo di più. Non mandarci in un postribolo, ti prego. Abbiamo avuto un aborto pochi giorni fa e poi non serviamo per questo mestiere, altrimenti non staremo qui adesso. Smise di tamburellare con le dita. Veramente io non pensavo a un postribolo, ma ai mulini, alle miniere. Abbiamo bisogno di schiave giovani, di ragazze da assegnare agli schiavi che scavano in quei budelli infernali, ragazze che poi giacciono con gli schiavi. Ma a voi, da quello che ho capito, non piace giacere né con i cittadini liberi né con gli schiavi. Sorrise, gettò un'occhiata alla clessidra ad acqua che continuava a scorrere. Comincio a invecchiare, Assiotea. A teatro nemmeno le più belle tragedie riescono a smuovere il mio cuore ormai rinsecchito da questo dannato lavoro. E scuoteva il capo fissando me e Marpessa a mano nella mano. Va bene, Assiotea e Marpessa, vi metto alla prova. Se non ci riuscite, alle miniere dell'Aurio. E chiamò l'arciere per farci riaccompagnare nel fabbricato dietro il portico. Raggiante in volto, occhi luminosi, Marpessa non faceva che elogiarmi per come ero riuscita a ringraziarmi Firomaco, ma a un certo punto dovette accorgersi del mio stato d'animo. Eravamo sedute sul tavolaccio, spalle al muro. Si mise in ginocchio di fronte a me, mi prese il volto fra le sue mani, mi costrinse a fissarla. Assiotea, per tutti gli dèi, ma che hai? Perché quella faccia? Io non l'avevo detto, non l'avevo detto. E farfugliavo ruminando una paura a cui non sapevo dare un nome. E lui non ha visto mio padre da quasi 2 anni. Tremavo, i ricordi pieni di sangue, la sua gola squarciata. Cosa non gli avevi detto? Assiotea, guardami! Era spaventata. Mi guardai attorno. C'erano poche ragazze, ma abbassai comunque il tono di voce. Ho paura di coinvolgerti, Marpessa, ma anch'io. Ho bisogno di aprire il mio cuore. Promettimi che manterrai il segreto. Le afferrai le braccia, strattonandola. Stai tranquilla, ma dimmi, ti scongiuro, forse potrò aiutarti. La sua espressione premurosa vinse i miei dubbi. Le raccontai dell'uccisione di mia madre e di come non era possibile che Firomaco sapesse, visto che per sua ammissione da quasi 2 anni non incontrava mio padre. Se l'avrà detto qualcun altro. Tua madre era pur sempre la moglie di un commerciante, qualcuno di Filiunte, il magistrato, il medico, durante qualche viaggio ad Atene. E allargava le braccia in un gesto di tale semplicità che avrei dovuto calmarmi. Invece il mio istinto mi suggeriva di non farlo. Quando ha letto il mio nome sul foglio di papiro, lui ha visto che ero figlia di Piramo e Antinoe. Quello era il momento adatto per fare un commento. Invece no. Lui non voleva parlarne. Firomaco lo voleva tenere nascosto e rimuginavo sull'accaduto. Poi gli è scappato. Il mio pensiero era inchiodato là, alla nostra stanza impregnata di sangue, alla gola squarciata di mia madre. Che cosa cambia se Firomaco ne era già a conoscenza? Assiotea, ti prego, cerca di calmarti, sembri stravolta. E il visetto smunto si era oscurato. Forse non era un ladro qualunque, forse il ladro cercava qualcosa che solo lei possedeva. Allora tutto ruota attorno al suo mestiere di copiare i libri. L'assassino sapeva perfettamente quello che cercava. Le statuette d'argento dell'altare domestico, le dracme, i monili furono rubati solo per sviare l'attenzione. Quel pensiero non cessava di tormentarmi. Assiotea, rubarono anche dei libri. Uno di sicuro. Il grande ordinamento. Forse anche qualche altro foglio di papiro dalle altre casse. Forse. E con gli occhi della mente cercavo di rievocare l'accaduto. Le borse. Le due borse di pelle. L'assassino ne portò via solo una, quella vecchia, mentre non fece caso alla nuova. Quindi aveva uno scopo ben preciso. Gli interessava proprio quel contenuto. Io gli avevo dato solo un'occhiata. Lo avevo sfogliato. Allora, mia madre è stata assassinata a causa di quel libro. Un'espressione dubbiosa apparve sul volto della mia amica, ma nel mio intimo sentivo d'essere nel vero. Mia madre era venuta in possesso di qualche terribile segreto. Qualunque cosa avesse scoperto, Non me ne aveva parlato, per proteggermi. Quasi tutti i libri che copiavamo finivano ad Atene. Quindi il segreto di Antinoe si annidava proprio lì, nella città. Eravamo partite alle prime luci dell'alba, percorrendo la larghissima via del Pireo scortate dagli arcieri. Eufrone ci precedeva su un carro. A quell'ora la strada fiancheggiata dalle lunghe mura settentrionali e meridionali era frequentata soprattutto dai pescatori che andavano a vendere all'agorà il tono del Ponto Eleusino, le triglie, i pesci rossi, i congrii e tutti i pesci presi nell'arcipelago. Accanto alle mura settentrionali ci fecero fermare nel luogo dei supplizi sotto la statua di Temi per assistere alla lapidazione di una donna accusata di impietà. Ci dissero che da molto tempo andava predicando nell'agorà di non credere agli dèi. Lo insegnava ai propri figli e a quelli dei vicini di casa, ed era stata sorpresa a rubare dei tappeti nel tempio di Afrodite e Urania e ai crocicchi della Via Sacra, il fegato e i testicoli dei montoni e dei maiali scannati per i sacrifici agli dèi. A nulla era valso il fatto che fosse povera e che le frattaglie dell'animale erano servite per sfamare i suoi figli. Senza ombra di dubbio era un'orchessa. Sotto gli occhi di un magistrato e degli arcieri armati, una decina di persone, coloro che avevano denunciato l'empia creatura, presero a scagliare grosse pietre sulla donna legata al muro. La sventurata cercava di proteggersi il volto, il capo, ma non poteva muoversi. I sassi le piovevano addosso, la gente scagliava le pietre urlando. Il suo volto fu massacrato, sangue, gemiti, lo strazio non finiva mai. Non riuscivo a staccare gli occhi da quella povera creatura. Un masso più grande le spaccò la fronte, finendola. Marpessa aveva il volto cadaverico, si aggrappava a me. Io mi sentivo morire. Ci trascinarono via. Quando varcammo la porta del Pireo, ancora ci tremavano le gambe, mentre Eufrone mostrava la lista agli arcieri di guardia. Lungo un dedalo di viuzze attraversammo il Collito, un quartiere che ancora non si svegliava. Per la strada incontrammo altri carri che si dirigevano all'agorà, carichi di frutta, verdura e carne. Sbucando nella piazza, restai senza fiato. Di fronte a noi, in alto, sulla nostra destra, c'era l'Acropoli, con i suoi maestosi monumenti, i Propilei, il Partenone. Ripensai alla minuscola Acropoli di Fliunte. Anche Marpessa era rimasta sbalordita dinanzi a tanta bellezza e maestosità. Era una vista da mozzare il fiato che incuteva timore. Avevo sempre creduto che l'Agorà di Atene fosse una grande piazza e invece mi trovavo in una città grande come Fliunte, piena di monumenti, portici, templi, fontane, botteghe, mulini, edifici maestosi, alberi e aiuole. Pullulava di gente, di tutte le razze e colori. La maggioranza, proprio come nell'agorà di Fliunte, erano uomini. Eufrone e gli arcieri ci condussero nel santuario di Teseo, da cui si poteva osservare il sito che sembrava un formicaio, dove si vendeva qualsiasi cosa tranne le armi. Una nostra compagna, Polissena, ci raccontò che era stata venduta anche lei dal padre quando aveva 13 anni. Aveva lavorato ad Atene per parecchio tempo in un forno e aveva potuto conoscere bene la città, soprattutto l'agorà, dove veniva spesso ad aiutare il padrone a vendere i pasticcini. Ci disse che se il nostro futuro padrone ci avesse trattato in modo inumano, avremmo potuto rifugiarci proprio lì, nel santuario di Tiseo, luogo protetto dal diritto di asilo, e così lui sarebbe stato costretto a rimetterci in vendita. Se avessimo subito oltraggi e violenze gravissime, volendo potevamo ricorrere a un sinegoro messo a nostra disposizione dalla legge, ma aggiunse, tutto questo dal punto di vista teorico, in quanto lei non aveva mai sentito che un sinegoro fosse riuscito a far trattare bene una schiava. Una schiava, amiche mie, quando è giovane e bella possiede una sola arma e dobbiamo saperla ben usare. Sempre se siamo fortunate e se capitiamo con un padrone a cui interessano le donne. Il suo sguardo brillava di vivacità quando si rivolse a me. Assiotea, tu sei un opinionista. Quando potrai tornare qui all'Agorà, ricordati di andare da Ofione. Vedi là, in fondo, sulla salita, dopo l'edificio rotondo? Sulla destra, dove ci sono tutti quei platani. C'è la bottega di Ofione, stracolma di papiri, dove si vendono i libri. Libri in tutte le lingue, libri di filosofia, di scienza, di teatro, di religione. Insomma, c'è pane per i tuoi denti. Dopo l'impressionante lapidazione a cui avevamo assistito lungo le mura, mi sembrava incredibile che nella stessa città ci fosse un luogo dove si vendevano libri. Capii che mi trovavo in un posto strano. Oh, Atene, quella città mi spaventava, ma una bottega dove si potevano comprare i libri. E già mi vedevo scavare in quelle montagne di polvere e di papiri, in quella piazza dove si smerciava qualunque prodotto, così come ogni tipo di bestia, compreso il bestiame umano a cui ormai appartenevo. Ebbene, nella stessa piazza si potevano comprare le opere di Tucidide e di Erodoto. Questa scoperta mi regalò una carica di entusiasmo. Ero così felice che mi sentivo capace di prendere il mondo racchiuso nella metà inferiore della clessidra e rovesciarlo, metterlo sottosopra e provare a cambiarlo. Io, ancora con l'orrore negli occhi per quello a cui avevo assistito sotto lo sguardo implacabile della dea Temi, io. Una ragazza marchiata a fuoco che stava per essere venduta all'asta degli schiavi, mi sentivo in grado di capovolgere il mondo. Eufrone aveva appena elencato il mio nome di Marpessa, declinando la nostra età, la nostra provenienza e quello che sapevamo fare, compreso saper leggere e scrivere, quando un uomo dal volto ovale si girò verso la parte alta del tempio dove ci trovavamo noi e chiese a me, con voce sgradevole, come mi sentivo nell'osservare l'agorà? E io, senza riflettere, risposi: In una piazza dove si possono comprare anche i libri, può accadere di tutto, signore. Anche che una schiava marchiata a fuoco si senta per un momento libera. L'uomo mi osservò attentamente, poi si rivolse a Eufrone: Che non si perda tempo inutilmente. 15.000 per le due ragazze. Eufrone rimase visibilmente deluso. Perdonami, cittadino Demostene, ma credimi se ti dico che queste due schiave valgono di più, molto di più, e te lo faranno capire i tuoi concittadini con offerte più adeguate. E mosse il capo sul collo taurino, scrutando la gente che nel frattempo si era assiepata attorno all'entrata del santuario di Teseo. Ebbe inizio, da quel momento, un susseguirsi di offerte, ma i cui aumenti consistevano sempre nel minimo per legge, un obolo. Finché proprio una delle persone che parlava con Demostene offrì sia per me che per Marpessa 20 mine, 2.000 dracme. Un brusio si levò dalla gente che partecipava all'asta. Gli occhi di Eufrone cominciarono finalmente a brillare e si accesero quando Demostene, volto e incupito, offrì mezzo talento, 3.000 dracme, 1.500 dracme per me e altrettante per Marpessa. Quando una schiava normalmente veniva acquistata per 500 dracme. Lo sguardo di Eufrone era incollato ai due uomini. Colui che aveva provato a strapparci a Demostene sorrise rassegnato, dette una stretta all'avambraccio dell'amico con un chiaro segno di resa.